Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. La storia di oggi parla di un artista i cui colpi d'ala sono coincisi con i colpi di pennello. Un uomo che ci ha mostrato come la follia confina sempre con il talento e in qualche caso il confine non è neanche ben definito. Nel caso del protagonista di oggi, la follia non è un simbolo di creatività, non è un'esagerazione, stiamo parlando di pazzia vera e reale. Oggi vi raccontiamo la tormentatissima e affascinante vicenda umana di un grande artista italiano, Antonio Ligabue, il pittore di Gualtieri. Lo facciamo anche grazie a un ascoltatore, Giuseppe da Parma, che saluto. Come mai? Cosa ti affascina di Antonio Ligabue? Perché ci hai consigliato questa storia? Perché è un artista vicino a Parma, è appena è a chilometri zero in pratica, perché siamo a 30 chilometri dalle rive del Po, sì. Per cui curiosità di un artista qua vicino che si può andare a vedere comodamente, e poi i suoi quadri sono abbastanza, danno un'idea della sofferenza di quest'uomo. Esatto. Era considerato un matto. Era considerato un matto, ma hai detto due parole chiave: la sofferenza di quest'uomo e la sua pazzia. Proprio di questo parleremo. Grazie mille, Giuseppe. Okay. Ciao. Grazie a voi, salve. Buon ascolto. Nella memoria di tanti di noi, soprattutto di chi è cresciuto con la televisione, con gli sceneggiati degli anni 70, Antonio Ligabue ha il volto dell'attore Flavio Bucci, che interpretò in maniera suprema il pittore nella produzione TV di Salvatore Nocita, 3 puntate per la Rai con la sceneggiatura firmata da un certo Cesare Zavattini. Così la storia di Ligabue, della sua follia e della sua arte è arrivata a tante persone. È una storia di quadri, di sculture, ma anche di solitudine, di difficoltà di esistere, di inserirsi, di male di vivere. Antonio Ligabue nasce a Zurigo il 12 dicembre 1899. È strano perché voi l'avete sempre sentito, quelli che hanno visto Flavio Bucci, parlare in emiliano. Però andiamo con ordine. All'anagrafe elvetica viene registrato come Antonio Costa, che è il cognome della madre Elisabetta, emigrata a Veneta di un paesino del Bellunese. Antonio è figlio di NN, come si diceva una volta, cioè di padre ignoto. E un patrigno, Antonio, lo trova in Bonfiglio Laccabue, che è un altro emigrato in Svizzera del comune di Gualtieri, provincia di Reggio Emilia. Questo Laccabue sposa la ragazza madre Elisabetta Costa nel gennaio del 1901 e dà il proprio cognome naturalmente anche al piccolo Antonio. È un patrigno che lui non amerà mai, anzi arriverà a odiare, perché nel 1913 la madre e i suoi 3 fratellastri muoiono di una intossicazione alimentare da carne marcia, cose che succedevano all'inizio del secolo scorso. E Antonio si convincerà per tutta la vita, a dispetto dei fatti, che la colpa di quelle morti è proprio del patrigno di Bonfiglio. Laccabue è un assassino, sì! Richard Murder, ya! Yeah. Lui ha dato da mangiare carne avvelenata a mia madre! 26 gennaio 1913. Qui! È scritto qui, sui giornali, anche in Svizzera l'hanno scritto, qui. Carne marcia gli ha dato lui, l'ha ammazzata. Sicuro. Ma sta dentro tuo padre. Tuo padre è in prigione. Nai dentro, nai prigione. Ma lui è un assassino lo stesso. Cosa succede qui? Chi è? Chi è che sarebbe un assassino? Laccabue. Gli ha dato carne marcia. L'ha ammazzata. Ma no, è una vecchia storia. Tutto è venuto a galla. Il povero Bonfiglio non c'entra mica. Il tuo patrigno è una brava persona, sai. Avete notato la bravura di Flavio Bucci, che riesce a parlare con accento svizzero e contemporaneamente emiliano. Stiamo parlando di un grande attore che sta raccontando una grande storia. Con quel patrigno e con la madre, Antonio non vivrà neanche l'infanzia, perché viene dato subito in affidamento a una famiglia svizzera, i Goebel, che non riescono a garantirgli la tranquillità di cui avrebbe bisogno, perché sono spesso in difficoltà economiche, sono costretti a trasferimenti per lavoro e in più i disturbi della personalità di Antonio emergono fin da bambino. Saranno proprio i suoi genitori adottivi a denunciarlo più volte per i suoi comportamenti violenti, che sono scambiati per un carattere difficile. In realtà sono i semi di un disagio che, non curato, perché in quegli anni si era molto sbrigativi con i disagi dei bambini, diventano malattia mentale e diventano sempre più evidenti. Antonio cambia scuole, ha difficoltà di apprendimento, di condotta, insomma finisce negli istituti scolastici per bambini anormali, come si diceva allora. Nel 1915 è cacciato dalla scuola di Marbach, si trasferisce a Stade con la famiglia. Due anni dopo ha una prima crisi nervosa seria, finisce per la prima volta in un ospedale psichiatrico. Nel 19, su denuncia della madre adottiva, viene espulso dalla Svizzera. E la logica dell'espulsione è diretta, ma è puerile. Antonio Laccabue è di origini italiane e quindi va rispedito in Italia. Nessuno considera che il ventenne non ha radici in Italia, non conosce l'italiano. Dalla frontiera di Chiasso viene portato a Gualtieri, il paese del padre. Non ha amici né familiari. Di fatto è destinato alla disperazione, all'indigenza. Infatti non appena può scappa, cerca di rientrare in Svizzera, viene catturato a Lodi, riportato a Gualtieri e finisce in un ospizio per poveri, l'ospedale di mendicità Carri. Nel 1920, finalmente, trova una specie di lavoro sugli argini del Po, diventa carriolante, sposta la terra con la carriola dal terreno vicino al fiume fino ai camion che la trasporteranno. Dai forza, Laccabue, che ti devi guadagnare la giornata! Forza, Laccabue! Forza, Laccabue! Oh, Laccabue! Anche la giacca! Ma tanto la cravatta! Laccabue, spesi la caretta lì! È solo l'ennesima tappa di un calvario che durerà per tutta la vita per Antonio Laccabue ora e Ligabue tra un po'. È il periodo in cui però lui comincia a rifugiarsi nella pittura, o meglio, dipinge con mezzi di fortuna, con i legnetti bruciati, intaglia i tronchi degli alberi con un coltello, scopre l'argilla sulle sponde del grande fiume con la quale riproduce animali che sono i suoi soggetti preferiti. E non solo quelli che vivono nella zona, ma anche tigri, leoni, leopardi, magari visti da bambino in qualche zoo. Sono animali che raffigura e di cui imita il verso anche in pubblico, cosa che gli garantisce da subito la nomea di pazzo, anche se il talento sta cominciando a esplodere. Ma cosa stai facendo? Leone. Come gli somiglia, va? Sei bravo, eh? Come hai fatto presto a farlo? Ero bravo in disegno a scuola. Sei bravo, sì. Sei proprio bravo. Uè, Laccabue, cos'hai di dolore che fai tutti quei versi? Cos'hai, le doglie? Hai da partorire? Voglio culle le ciucche. E gli animali, molto più degli uomini, saranno i suoi compagni di vita, anche se compagni immaginari, ma lui lì andrà a rifugiarsi, al riparo dalla cattiveria della gente. Lui gli animali li sente vicini, vorrebbe assomigliare a loro al punto da ferirsi al volto per sembrare come loro. Il falco e il gabbiano. Abbiamo lasciato Antonio Ligabue alle prese con la follia, ma quindi anche con l'arte, perché lui ha avuto da subito problemi mentali, ma da subito ha capito che poteva salvarlo e sostenerlo il suo immenso e limpido talento. E l'abbiamo ritrovato in un ospizio per poveri, in un mondo alieno, dopo essere stato espulso dalla Svizzera. L'abbiamo ritrovato nella nebbia della pianura padana, lungo il corso del Po, che in quella zona segna il confine tra l'Emilia e la Lombardia. E lui trova lavoro sul fiume, prima come carriolante, poi vaga per i boschi che costeggiano le sponde e usa l'argilla per le sue sculture di animali. Vive così, si sposta senza una meta precisa lungo il corso del Po, dorme in una capanna, non si lava e spia le donne che lavano i panni. Cuscus in bagna, cuscus in bagna, cuscus in bagna. Oh, che clela! Ma che cos'hai da gridare? Hai un brutom che guarda fis. Ah, altel dig me chi che salvati cle. Lei il tedesc. Quell'isto se per di ora guarda i don. La dovrebbero mettere in manicomio. Sono 6 o 7 anni che sta nel bosco. Vive come una bestia, nella paglia. Ma non è mica una bestia, pittura perfino sugli alberi. L'è proprio brutta, però li don li rispetta. E te, ci andresti a letto con quello lì? Oh, almeno dovrebbero darmi 1 milione. Eh no, io proprio non ce la farei, sai. Prima di tutto puzza. E poi dicono che mangia anche i topi, figurati. In realtà lui è innocuo, rispettoso delle donne, però è una figura inquietante, perché pensate, una persona che vaga come un fantasma tra la nebbia imitando i versi degli animali. Beh, quello che stiamo per sentire è l'audio originale, il vero Ligabue nella situazione che ho appena descritto. Dipingere per lui è una specie di chiodo fisso, fa decine di quadri, moltissimi autoritratti e poi inizia a barattare le sue opere con i contadini della zona. Le baratta in cambio di cibo, oppure magari del permesso di dormire in un pagliaio in una stalla insieme ai suoi amati animali. Nei dintorni di Gualtieri lo conoscono tutti e tutti cominciano a apprezzare i suoi dipinti. Pina! Cosa c'è? Pina, porta qua una minestra per Tori. Me ne dovete 10, eh? Sì, sì, sì. Sì, va bene, le quasi cotte. Sai, Tori, cosa mi devi fare a me? Mi pitturi un animale, per esempio un tacchino. Un bel tacchino grande, quando fa la ruota. Sì. Sì, bene, ve lo faccio subito. Ci vuole un cartone però, o anche un legno, sì, bello grande, eh. Remo, porta fuori un cartone, un pezzo di legno. Sì, ma grosso, sì. Grosso che ci voglio di pitturare, sì. E quindi lui vede la pittura come l'unico momento liberatorio della sua vita. Però ha un carattere che gli rende impossibile la convivenza col prossimo. Comunque comincia a fare conoscenze importanti. Per esempio c'è una persona che è comunque considerata lo scopritore di Ligabue. Si chiama Renato Mazzacurati. L'incontro avviene nel 1928. Mazzacurati ha visto i disegni fatti di notte da Ligabue sulla facciata di un palazzo a Gualtieri. Gli raccontano di questo pittore mezzo matto. Lui lo va a cercare nella capanna del bosco in cui vive. Tony, mi hai fatto paura. Cos'è che volete ancora da me? Beh, ti ho portato un po' di roba per pitturare. Pitturo anch'io, sai. Ho visto le bestie che hai fatto sul muro, in piazza, Gualtieri. Hai fatto un vero affresco. L'ho mica fatto me. Ma va, non sono mica un carabiniere io. Sono un artista. Anche me sono un artista. Ma lo so, ho visto i tuoi galli che hai dipinto nella capanna. Sono belli, veramente belli. Sono fatti da un vero artista. Lo sai, Tony, che sono venuto fin qui per portarti dei pennelli, dei colori. Guarda, guarda che belli. Ti piacciono? Mazzacurati e la moglie in qualche modo si occupano di Antonio, perché lo aiutano a dipingere, gli comprano tele colori e gli danno una mano anche a vendere qualche quadro, insomma a uscire da questo buio di conoscenza e anche dal modo rudimentale con cui creava le sue opere su cartoni eccetera. Insomma, gli danno la possibilità di iniziare a vedere la pittura come una prospettiva durevole nel tempo e poi soprattutto gli danno l'opportunità per fare esplodere questo talento di cui lui è ben consapevole a dispetto della sua confusione mentale sulle altre cose. Insomma, per Ligabue sta per arrivare la notorietà, ma stanno per arrivare anche i guai e il manicomio. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando una storia che ci dice ancora una volta del profondo legame che c'è tra il disagio mentale e il talento artistico. A volte il legame è spinto fino all'esasperazione, come nel caso del nostro protagonista Antonio Ligabue. Una vita ai margini della società, in un paesino tra l'Emilia-Romagna e la Lombardia, un'infanzia terribile attraverso i ricoveri in manicomio, e vive con una ossessione vera e propria, la pittura. Vi ho raccontato di come l'incontro con un altro artista, ben meno dissennato mentalmente, Renato Mazzacurati, abbia permesso al nostro protagonista di passare da disegni fatti sui muri del paese con i legnetti bruciati a quadri veri e propri, i quadri che l'hanno reso famoso, raffigurazioni di animali, spesso in disperate scene di lotta. E poi decine e decine di autoritratti, molti dei quali si nota una delle ossessioni di Ligabue, quella per il suo naso. No! No, no! Toccami il naso! Non si deve! Te non devi toccarmi il naso, va bene? Uff! Questo qui c'ha la fissazione del naso. Scusa, William, ma Tony diventa matto se gli tocchi il naso. E tu non glielo toccare. Stimporta! Dai, da bravo, Tony, mettiti a sedere che adesso ti fa la barba. Dai, vamo là. Il naso di Ligabue, come si può notare in tanti quadri, era sempre ferito su un lato. L'autolesionismo era un altro segno evidente del suo disagio mentale. Aveva spesso ferite aperte sulle tempie per fare uscire, come diceva lui, gli umori cattivi. L'autore Romolo Valli, che lo conobbe e lo frequentò, parlò dell'ossessione del naso di Ligabue in un documentario. Tra le altre cose, aveva la mania di ferirsi il naso o strusciandolo contro lo spigolo di un muro o la corteccia di un albero o picchiandoselo con un sasso. Che cosa voleva fare con questo Ligabue? C'è chi dice che volesse addirittura crearsi un rostro come i rapaci che tanto amava, che tanto ammirava. Chi dice che addirittura fosse un modo per trovarsi in una identità con quegli animali che aveva visto nella sua infanzia dietro le sbarre degli zoo battere come con una ricerca e un anelito di libertà contro le sbarre della gabbia. Proprio questi atti di autolesionismo lo riporteranno in manicomio e lo frequenterà per tutta la vita al manicomio. Finisce ricoverato nel 37 a Reggio Emilia, viene dimesso 4 anni dopo grazie all'intervento dello scultore Andrea Mozzali, che lo ospita a casa sua a Guastalla, perché il mondo dell'arte si sta accorgendo di lui. Durante la Seconda Guerra Mondiale la sua conoscenza del tedesco gli viene utile, fa da interprete alle truppe del Reich, almeno fino alla lite, con un soldato tedesco a cui non piace il modo in cui Ligabue lo sta disegnando. Lite che si conclude con una bottigliata sulla testa del militare. Che cosa è questo? Ah no, ma questo è il naso di giudeo. Io ariano, io avere naso di ariano, va sto il blöder und, tu devi cambiare. Ma sono un grande artista, va bene a sé. Ah, tu devi obbedire, tu mi devi aggiustare il naso. No, a me non mi comanda nessuno, va bene? Tu devi cambiare il mio naso. Io quel naso non te l'aggiusto. Dai, dai, nessuno mi comanda a me, dai. Tu cambiare, tu cambiare. No, a me non cambi niente, mi sono un artista. E il tuo naso, va bene a sé, al caffè. E beh, credo che pochi abbiano avuto in quel periodo l'ardire di rompere a un tedesco una bottiglia sulla testa. Insomma, tutti ne hanno parlato dopo, a guerra finita, di robe del genere, ma che l'abbiano fatto veramente ce ne sono pochi. Così Ligabue torna dietro le sbarre del manicomio di Reggio Emilia, quelle che ormai gli sono familiari. Continua a dipingere, anzi si intensificherà in quegli anni la sua produzione e rimarrà altri 3 anni in manicomio fino al 48. Lì lo incontrerà per la prima volta appunto l'attore Romolo Valli, che racconterà in un documentario molti anni più tardi del suo rapporto con Ligabue. Come tanti giornalisti, critici e mercanti d'arte, lui va a trovare l'artista sperando anche di poter avere qualche quadro. Ligabue sedeva a questo tavolo con altri malati. L'approccio non fu facile. Ho detto che Ligabue era un uomo scontroso, insofferente, diffidente e orgogliosissimo. Se mai c'è stato un pittore consapevole del proprio talento, questo è stato proprio Antonio Ligabue. Lo osservavo, intimorito, preoccupato. Il volto e le mani erano imbrattate di colore. Non potei fare a meno di pensare a quello che mi avevano detto, che Ligabue era abituato e usava impastare i colori con le secrezioni organiche del suo corpo. Cercai di farlo parlare, non ci riuscii e mi resi conto che forse l'intervista non l'avrei mai fatta, ma che probabilmente sarei riuscito ad avere i suoi quadri. Beh, l'esperienza del manicomio è pesantissima per Ligabue, come è logico, però lui continua a dipingere la sua camera, sarebbe meglio dire la sua cella, è piena zeppa di tele, è come se il disagio mentale potesse correre nella sua vita in parallelo con il suo talento artistico. La verità è che disegnare, usare i pennelli, i colori sono gli unici modi per sentirsi meglio, per colmare quella profonda solitudine di cui soffre. Non c'è altro nella sua vita. Perché, dottore? Io devo stare qui dentro. No, perché non sei ancora guarito, Tony. Ma io che male c'ho? Cosa ti devo dire? Tu hai uno stato depressivo con qualche idea fissa, qualche mania. Mi capisci, Tony? Ma io sto bene di testa. Lei mi può domandare quello che vuole, che io ci rispondo. E se sto qui che io finisco matto sul serio. Sa che nella mia camera tutto mi si stringe addosso, tutto, sì, davvero. Mi manca il respiro a me. Però se mi aiuti, guarisci e torni fuori. Te lo prometto. Guardi, se lei mi fa andare fuori di qui, io ci regalo un quadro. Anzi, due, tre, tutti i miei quadri ci regalo. C'è da dire che appena si inizia a parlare del talento di Ligabue al di fuori del suo paese, cominciano a apparire molti nuovi amici e quasi mai disinteressati, perché sono tutti alla ricerca di un quadro, di un disegno, di qualcosa che nel tempo, sono sicuri, acquisirà valore, e soprattutto nel momento della morte dell'artista, come sempre accade. Insomma, quell'uomo così strano, palesemente disturbato, col carattere irascibile e scostante, diventa un po' più accettabile per chi spera in un guadagno di qualche tipo. L'esposizione pubblica di Ligabue negli anni 50 diventa più consistente, inizia per lui un periodo artisticamente molto fruttuoso. La sua fama si allarga e il suo lavoro comincia a essere veramente apprezzato. Vince premi, vende le sue opere che vengono inserite nelle prime mostre collettive. La notorietà, come sempre, porta nuovi amici che spesso lo ospitano in casa, permettendogli di lasciare l'ospizio per i poveri di Gualtieri, dove ancora trova ricovero. Arrivano le prime mostre personali, organizzate grazie proprio ai pochi amici veri, agli artisti come Mazzacurati, come lo scultore Mozzali. Addirittura nel 57 diventa il protagonista di un lungo articolo sul Resto del Carlino, firmato da Severo Boschi e dal fotoreporter Aldo Ferrari. Ma Ligabue non cambia, perché rimane lo stesso, con le sue ossessioni, le sue paure, il suo male di vivere, il suo disagio, soprattutto la sua solitudine. E per uno come lui non è semplice avere una donna. Nel migliore dei casi viene respinto, sviluppa una delle sue tante manie, va a dormire vestito da donna. E in un famoso documentario gli chiedono perché. Antonio, perché lei si veste da donna? Mi sento molto felice vestito, perché sono avvoiato dentro, mi fa le sottovesti, tutta roba pulita, bianca. Con più sono bianchi i sottovesti, più sottile, con più sento, mi sento meglio. Il denaro comincia ad arrivare e Ligabue può finalmente soddisfare alcune sue passioni, la motocicletta, poi addirittura le automobili, per sentirsi importanti. Lui compra un'auto, assume un autista e pretende che gli apra la portiera per salire e scendere, togliendosi ogni volta il cappello. È la sua rivincita, qualcuno che lo rispetta e che evidenzia il suo rispetto nei confronti del mondo. Ma naturalmente, nonostante il successo e il denaro, Ligabue resta un uomo disperatamente solo. Nel suo documentario Il Vero Naif di Raffaele Andreassi c'è una scena che trovate anche su YouTube e lo si vede quasi elemosinare un bacio da una bella ragazza in una locanda che gli ha chiesto un disegno in regalo. Mi fa un disegno? Ma sì, e cosa mi dati? So, adesso mi faccio il disegno, dica lei, cosa vuole? Mi date un bacio. Beh, insomma. È un po' difficile? No, mi faccio il disegno prima, poi dopo. Perché va sempre via? Ma sia un po' vicino a me anche, mi fa compagnia su, sono più felice vicino a lei. Bene. Non ci accapa. Ci accapa da te. Disegna prima, dopo. Facci prima il disegno. Nel 1961 Antonio Ligabue ha un incidente sulla sua amata motocicletta. L'anno dopo viene colto da un ictus con una conseguente emiparesi. Continua a dipingere nonostante la malattia. Nel 63 a Guastalla viene allestita una grande mostra antologica dedicata alle sue opere, organizzata da un altro dei suoi amici, il gallerista Vincenzo Zanardelli. Nel 65, all'età di 66 anni, Antonio Ligabue muore in un letto del ricovero dei poveri di Gualtieri, quella che in fondo è sempre stata la sua unica vera casa. La fama e l'importanza artistica di Ligabue sono cresciute ancora, naturalmente, dopo la sua morte. Gli sono stati dedicati documentari, libri, il grande sceneggiato della Rai di cui abbiamo parlato più volte, quello con Flavio Bucci, scritto da Cesare Zavattini. Augusto D'Aolio, l'indimenticato cantante dei Nomadi, gli ha dedicato una canzone, forse colpito da quelle immagini di cui vi ho detto, in cui Ligabue chiede quasi disperatamente un bacio a una ragazza. Di Ligabue restano i suoi tantissimi quadri, le piccole sculture di creta, i disegni degli amati animali. Resta soprattutto la storia di un uomo capace di volare alto sopra la sua pazzia. È la pittura che ha salvato l'anima disperata di Antonio Ligabue, resterà nei suoi quadri a memoria della sua vita così sofferta e difficile. E nelle vite di tutti noi c'è la possibilità di volare in alto, di salire, scendere, però riuscire a darlo quel colpo d'ala per cercare magari di essere migliori. Se volete mandarci i vostri commenti o segnalare altre vite su cui volete che noi si punti il nostro microfono, fatelo, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite sui miei social, Facebook, Twitter, sui nostri social, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani.